Dunque, il testo di Matteo va chiamato l'Annunciazione a Gesù e pone in rilievo la figura di questo uomo di fede e di donazione. Il silenzio di Giuseppe è segno di forza, di riflessione. Non perde la testa, riflette, crede e agisce. Notate, riflette, crede e agisce. La gravidanza di Maria mette in crisi la storia che egli stava costruendo insieme con lei. E il testo suggerisce però che non vi è situazione umana, per quanto possa essere complessa e dolorosa, che non possa essere vissuta con umanità. Che vuol dire? Se la reazione normale sarebbe stata quella di ripudiare, secondo la prescrizione di legge, la donna, l'Evangelista però dice: Giuseppe era uomo giusto, decise di lasciarla in segreto, non di denunciarla in pubblico. Notate che nella tradizione il Giuseppe viene sempre messo lì come un buon uomo, un ragazzone, che so io, ma era un uomo sapiente, proveniva da generazioni cariche di storia che lui conosceva molto bene. Invece di ripudiare Maria, abbandonandola al generale disprezzo perché sarebbe stata lapidata, Giuseppe sceglie un'altra soluzione. Sceglie una modalità giusta, ed è giusta perché è umana. La giustizia di Giuseppe è nel suo essere umano. Solo questa giustizia, infatti, onora l'immagine di Dio che sta nell'uomo, che sta in me, in voi. Giuseppe guarda la persona Maria e non la sacrifica. Non la sacrifica a una interpretazione della legge. Giuseppe è l'uomo innamorato. Decide di lasciare la fidanzata per sospetto, cioè scusate, per rispetto, non per sospetto. Continua a pensare a lei presente perfino nei suoi sogni. Infine la prende con sé. Va oltre la prescrizione della legge, ma per amore. Giuseppe è l'uomo dei sogni. Ci sono nel Vangelo di Matteo tre notti, tre sogni, tre obbedienze. Non sto a elencarle adesso, ma poi quando dice prendilo, scappa via da qui, poi quando è là dice adesso ritorna, sempre in sogno. E Giuseppe è l'uomo di fede. Intanto è l'uomo dei sogni. È un carpentiere, ma che bello, è anche un sognatore. ognuno agisce in base a ciò che coltiva dentro il cuore. L'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giuseppe è l'uomo di fede. A ogni turbamento c'è questa voce, poi spiego. Vabbè, è umano, vorrebbe sottrarsi al mistero, ma poi ascolta e fa sua la parola con cui Dio si rivolge all'uomo. Non temere, ci richiama il giardino dell'Eden. Non temere, ho avuto paura. Giuseppe non dà spazio alla paura e darà il nome e sarà padre educatore di Gesù. Mi è capitato in questi giorni di così, tra vari articoli di giornali, un articolo interessante su il vero padre è quello che educa. Poi puoi fare anche il DNA. E mi veniva proprio mentre ero interpellato su una questione di questione giuridica sul padre col DNA giusto, che se ne posso dirlo così, se ne è fregato, insomma, no, del figlio. E il padre che lo ha allevato, che lo ha educato, che gli ha fatto da figura paterna, guarda te, rivendica il diritto di dare il nome a questo figlio. Che problematiche giuridiche. Tremendo. Beghe dall'altro mondo. Scontri sfracelli di relazioni attorno a queste cose. Giuseppe va oltre, diventa l'educatore. Generare un figlio può essere facile, insomma, essergli padre, madre, amarlo, amarla, farla crescere, far crescere, è tutta un'altra avventura. Adesso vorrei, capisco che entro in un, perché noi che siamo qui presenti abbiamo situazioni tanto diverse le une dalle altre, e non vorrei far diventare il pensiero che esporrò il talismano che nel Vangelo di Luca l'annunciazione è fatta a Maria, nel Vangelo di Matteo è fatta a Giuseppe. Il pensiero che voglio esprimere è questo. Ci sovrappongono due Vangeli e scopro che in realtà l'annuncio è fatto alla coppia. La chiamata è rivolta allo sposo e alla sposa insieme, all'uomo e alla donna. Dio parla a tutti e due, al giusto e alla vergine, innamorati. Dio opera i suoi fatti più straordinari dentro la coppia, protagonista della vita nuova, la coppia. Dio non rompe la coppia. Chiede e cerca questo doppio sì, che diventa creativo proprio perché è condiviso. La coppia a cui è affidata la vita. La coppia è la destinataria della prima benedizione biblica. Lascio a ognuno vivere o riflettere questo pensiero. Non è un azzardo teologico, è biblico il discorso. Allora la casa è il luogo dove Dio si fa prossimo, vicino, viene ad abitare e lì parla. Parla attraverso delle persone che ci ha messo accanto e ci guarda con lo sguardo delle persone che vivono accanto. Posso fermarmi qui, vero? Almeno io ho deciso di fermarmi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, in terra.